Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Marco Palmieri e Piquadro. Tecnologia, borse e valigie. Di Alessandra Scaglioni. Piquadro è nata come una piccola società di trading, di commerciale, di articoli di pelletteria, perché il caso ha voluto che io conoscessi un'azienda che produceva piccola pelletteria e ho iniziato a venderla mentre studiavo. Marco Palmieri, classe 1965, è presidente e amministratore delegato di Piquadro, azienda bolognese che opera nel settore della pelletteria di lusso ed esporta in 50 paesi del mondo. La storia della sua azienda inizia nel 1987 in provincia di Bologna e dal trading commerciale creato come attività collaterale si sviluppa in qualcosa di diverso. Poi per una decina d'anni questa azienda di commerciale si è trasformata in produttore in conto terzi, mentre io in realtà mi occupavo anche di altro, perché ho lavorato nel mondo dell'IT per 7-8 anni, poi ho venduto la mia attività nell'IT e nel 98 abbiamo coniato il marchio Piquadro. E la storia della Piquadro attuale è nata nel 1998. Nel 1998, infatti, con la creazione e diffusione del marchio, nasce una linea di produzione specifica. Ci siamo immaginati un consumatore che in quel momento non era particolarmente ben servito dall'offerta commerciale. Il consumatore era un uomo che viaggiava per lavoro e che necessitava di contenitori per il suo computer, e quindi borse, trolley e quant'altro, che non avessero a che fare con magari con la moda estrema. In quel momento c'era un'offerta di prodotto branded premium prevalentemente sul mondo donna e spiccatamente fashion. Noi invece volevamo fare un prodotto di lunga vita e quindi con dei valori più vicini al design che non alla moda, e che avessero delle logiche funzionali un po' particolari. In modo che chi lo utilizzava, generalmente un consumatore più attento alla tecnologia, alla funzionalità, al comfort, trovasse nel prodotto sempre qualcosa di vicino a sé. La struttura e l'esperienza per quanto riguarda la produzione ci sono già. Vengono riorganizzate in Italia e all'estero e si lavora sul marchio. Beh, evidentemente un'azienda per funzionare deve comunicare qualcosa che realmente fa, quindi il prodotto deve assolutamente essere coerente con quello che tu comunichi. E noi siamo persone di prodotto, noi producevamo in conto terzi, quindi eravamo molto vicini al prodotto, eravamo assolutamente un'azienda product and production oriented. L'abbiamo imparato dopo a fare un po' di marketing per raccontarci. E noi, proprio partendo dal manufacturing, abbiamo iniziato a produrre in parte in Italia e in parte all'estero. Però quello che producevamo e quello che produciamo ancora oggi all'estero è fatto con materiali italiani. Quindi abbiamo mescolato queste competenze. Quindi competenze di design, ingegnerizzazione, marketing e funzioni italiane. Materiali italiani e manufacturing semplice, manodopera asiatica, non esclusivamente asiatica, anche italiana, ma anche asiatica. Questo ci ha consentito di liberare risorse per l'R&D, ad esempio, quindi introdurre sul mercato un prodotto molto performante con un value for money molto interessante, che non vuol dire un prodotto economico, non è un prodotto economico, ma un valore intrinseco di funzione, di materiale, di qualità straordinario, riteniamo superiore alla media del settore. Le competenze necessarie però adesso sono molto più ampie, perché l'azienda produce, commercializza, prevede aspetti di gestione economica e di comunicazione. La crescita è costante, anche se non semplice. Una vita aziendale abbastanza complessa, anche perché noi siamo molto integrati, quindi abbiamo la fabbrica di proprietà, la logistica di proprietà, quasi metà del nostro fatturato passa da negozi monomarca, siamo molto integrati e questo ci ha rimesso in gioco moltissime volte per portarsi dentro nuove competenze. Quando abbiamo deciso di aprire la fabbrica in Cina, che è nostra, di proprietà, avevamo evidentemente un deficit di competenze, non avevamo competenze per fare quella cosa lì, quindi abbiamo dovuto creare un mondo di competenze per quello, così come 4-5 anni fa che abbiamo deciso di vendere nei nostri negozi i nostri prodotti, abbiamo dovuto trovare competenze per strutturare il retail, che è un altro mondo rispetto all'industria. In realtà siamo ancora in mezzo al guado, stiamo ancora lavorando, ma ci sono stati momenti di grande complessità. Lo stesso è stato per la finanza aziendale. Noi nel 2001 abbiamo aperto il capitale a un private equity, nel 2003 è uscito il primo, è entrato il secondo private equity e nel 2007 ci siamo quotati alla Borsa di Milano. Per reperire le risorse necessarie alla crescita, quindi, la scelta è quella di lavorare con il private equity, una scelta che può porre problemi, ma che per Marco Palmieri e per la sua azienda è stata una buona soluzione. Io sono un esempio, sono un sostenitore del private equity, perché quando il private equity è fatto bene con un imprenditore di riferimento che governa l'azienda e col private equity che mette i capitali, apporta le sue competenze sul rigore gestionale, sulla trasparenza e quant'altro, il private equity è un ottimo strumento. Poi ci sono delle malversazioni che abbiamo visto in questi anni, quando hanno tirato troppo la leva del debito, oppure o anche con questo hanno pagato troppo le aziende e poi sono successi dei disastri. Però il private equity è stato per Pquadro un volano alla crescita. Il primo problema è la trasparenza. Se l'imprenditore entra nell'ordine di idee di dividere il patrimonio personale da quello aziendale e di rendersi trasparente e di condividere le esperienze, allora avere in consiglio d'amministrazione o avere come interlocutori dei professionisti della finanza è una cosa estremamente positiva. Perché è un confronto continuo e quindi trasparenza e confronto di solito producono delle belle cose. Se uno accetta il private equity nel capitale perché ne accetta i soldi e non vuole riconoscergli alcun ruolo, nemmeno quello del confronto, evidentemente non si trova bene. Però il private equity, come la borsa, voglio ricordare che è un modo per reperire risorse. Non sono dei gadget o degli strumenti per chissà quale funzione d'uso. Semplicemente quando un'azienda vuole crescere e le banche non gli danno abbastanza soldi o l'imprenditore vuole lavorare con un livello di sicurezza un pochino più alto, quindi con meno debito ma con più capitale, e non glieli vuole mettere o non li ha, va in borsa o si rivolge al private equity. La crescita dal punto di vista dei numeri c'è stata e prosegue anche dopo la scelta di entrare in borsa. Noi facevamo 7-8 milioni di fatturato e ci siamo quotati nel 2007, l'anno scorso ne abbiamo fatti 61, abbiamo un budget per l'anno in corso che prevede comunque una crescita double digit anche per l'anno in corso. In una decina d'anni, 10-12 anni, abbiamo decuplicato il fatturato con anche dei risultati economici di tutto rispetto, perché comunque siamo un'azienda che ha un EBITDA margin storico superiore al 26%, un utile netto del 14-15%, abbiamo un indebitamento finanziario dato dell'ultimo esercizio, una PFN di 3 milioni su 16 di EBITDA, quindi praticamente non abbiamo indebitamento e lo dobbiamo probabilmente al talento dei miei collaboratori, ma anche al private equity che ha creduto in noi, ci ha finanziato, e anche alle banche che ci hanno portato in quotazione per stabilizzare l'azionariato, anche se sembra strana detta così, no? Perché anziché avere un unico socio col 35% avevamo il mercato. Qui ancora più impegni di trasparenza e rigore, ma la possibilità di non porci il problema ogni 3 anni di cambiare un socio che ha il 35%. Nel 2000 il primo negozio monomarca a Milano, poi a Roma e Linate. Nel 2004 il primo punto vendita all'estero, a Mosca, seguito da Barcellona. Nel 2006 lo sbarco in Oriente, a Hong Kong. I negozi si moltiplicano sia in Italia che all'estero. Oggi sono 104 e negli ultimi anni si è percorsa anche la strada della differenziazione della produzione, aggiungendo a borse, cartelle, valigie e pelletteria una collezione di capispalla e di orologi. Nel dicembre 2006 un nuovo stabilimento produttivo, sempre in provincia di Bologna, a Gaggio Montano, che rappresenta, oltre che la sede operativa, la base logistica per gli ordini provenienti da tutto il mondo, a cui si aggiunge lo stabilimento produttivo a Shenzhen, in Cina. Beh, oggi l'azienda ha circa 600 dipendenti, 400 fuori dall'Italia e quasi 200 in Italia. Stiamo lavorando molto per espanderci in Asia, in particolare la Grande Cina. Abbiamo già 20 negozi a gestione diretta, questa è un'altra scelta. Abbiamo deciso di aprire i nostri negozi e di gestirli. È stata durissima all'inizio, però abbiamo capitalizzato competenze e esperienze che speriamo ci diano frutti. Quindi siamo molto presenti in Cina e da lì vogliamo crescere. Poi siamo presenti in Russia, siamo presenti in alcuni paesi europei e l'Italia è il nostro primo mercato. Il 70% del fatturato di Pquadro arriva infatti dall'Italia, ma è dall'estero che arrivano le maggiori prospettive di crescita per il futuro. Prospettive l'anno in corso Riteniamo che una crescita double digit, di raggiungere almeno un double digit in termini di crescita di fatturato, di aprire un altro po' di negozi e di fare cose importanti in Asia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.